Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Come cambieranno in futuro le campagne elettorali con lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale sempre più evoluti? È la domanda che ci facciamo stasera e che giriamo immediatamente alla nostra ospite Gaia Rubera, professore della Università Bocconi, dove dirige il biennio in Data Science and Business Analytics Program. L'ho conosciuta nel corso di un incontro pubblico, tra l'altro qualche mese fa, in occasione del quale ha tenuto una relazione dal titolo molto interessante ma anche un po' inquietante: è possibile hackerare una democrazia? Buonasera Gaia Rubera. Buonasera e grazie dell'invito. Allora, intanto diciamo subito che il futuro di cui parleremo è purtroppo molto vicino, se non già un dato dell'oggi, che però è destinato a veder crescere il livello di sofisticazione, purtroppo, perché non è un futuro molto edificante. Proviamo a procedere per parole chiave. La prima, non sorprendentemente, è personalizzazione della campagna e dei messaggi. Di cosa parliamo? Beh, in questo caso parliamo ovviamente della capacità di determinati partiti politici di riuscire a mandare tramite social network e sostanzialmente tramite Facebook dei messaggi personalizzati che sono perfettamente corrispondenti col profilo psicologico delle persone. Per esempio, negli Stati Uniti c'è stata una campagna su Facebook per supportare il Second Amendment, quindi il diritto di portare le armi negli Stati Uniti. Per esempio, nevrotici, a queste persone hanno fatto vedere un'immagine di qualcuno, una mano enorme che schiaccia una persona contro un vetro, e lo slogan della campagna era: il Second Amendment è la tua polizza assicurativa. Ad altre persone che invece avevano un profilo, come dire, più tradizionalista, erano interessate alla difesa delle persone, hanno fatto vedere un'immagine completamente diversa: un padre e figlio che all'alba andavano a caccia insieme, e il messaggio era: questa è la tradizione fin dalla nascita della nostra nazione. Quindi questa è sostanzialmente quello che succede adesso. Quello che succederà in futuro, possibilmente possiamo immaginare, quello che già alcune imprese fanno, è nel momento in cui un utente su Twitter o su Facebook scrive al proprio leader politico, il leader politico inizia a rispondere. Ovviamente non sarà il leader politico a rispondere, perché sennò questo dovrebbe passare la giornata a rispondere ai propri seguaci, ma è possibile che ci sia un chatbot, quindi un meccanismo di intelligenza artificiale che identifica il contenuto del post e poi risponde con la risposta più appropriata. E questo è molto gratificante, naturalmente, per chi riceve la risposta. Altra parola chiave: polarizzazione, anche questa ricorrente di questi giorni. Sì, polarizzazione, diciamo, vediamo questo tentativo di, come dire, dividere sempre più l'opinione politica, e questo viene fatto divide tramite... e timpera, no? Esatto, abbiamo imparato secoli. Questo viene fatto sostanzialmente attraverso dei social bot. I social bot sono degli account falsi che retweetano, ripostano su Facebook determinati messaggi. Ecco, le persone probabilmente sono portate a credere che questi social bot siano soltanto di una parte. Quello che osserviamo, molto interessante, è che questi social bot sembrano essere di entrambe le parti politiche. Non vuol dire che, come dire, entrambi gli schieramenti, repubblicani, democratici, destra, sinistra in Italia, fanno utilizzo di social bot, ma c'è qualcuno che, come dire, manda messaggi sia a favore di una parte che a favore degli altri, messaggi che hanno sempre più lo scopo di dividere. Quindi lei sta dicendo che una parte genera dei post anche contro se stessa allo scopo di aumentare la divisione e la polarizzazione, è corretto? Sì, noi abbiamo delle teorie psicologiche che ci insegnano: nel momento in cui io mi rendo conto che, come dire, la mia parte politica è attaccata da qualcun altro, da un nemico esterno, scatta l'autodifesa, diciamo così. Altra parola chiave che è un vero incubo è deepfake. Sì, deepfake sono considerati probabilmente l'ultima frontiera del tentativo di hackerare la democrazia. Sono sostanzialmente dei modelli, dei neural network che permettono di creare dei video di persone estremamente realistici che dicono cose con la voce della persona, cose che probabilmente la persona non si sognerebbe mai di dire. Sono un pericolo potenziale per la politica, perché a questo punto chiunque può far dire la qualsiasi cosa al proprio rivale politico, e quindi diventerà difficilissimo capire qual è la verità oppure no. La cosa interessante però è che la tecnologia che abbiamo oggi rende molto facile creare la creazione di questi deepfake. Perché ne vediamo un utilizzo, direi, estremamente limitato? Probabilmente perché l'impatto dei deepfake sarebbe molto forte. Ecco, quello che vorrei che passasse è che questo tentativo di hackerare la democrazia non viene fatto, attraverso degli eventi paradossali, estremamente visibili, ma viene fatto in maniera continua attraverso delle spinte gentili. Qualche anno fa un economista ha vinto il premio Nobel con questa idea delle spinte gentili, per cui l'idea è che le persone cambiano i propri comportamenti non perché esiste un evento drammatico, ma perché continuamente ricevono delle spinte a spostarsi verso una determinata direzione. Ecco, probabilmente il deepfake sarebbe una spinta troppo forte, esiste un rischio molto forte poi. Certo, di autogol fondamentalmente. Esatto. Ultima parola chiave è reclutamento. Esistono proprio delle campagne di reclutamento sui social network in cui si chiede il consenso ad utilizzare poi questo account nel momento in cui il leader politico di riferimento va in una determinata trasmissione, per cui questa rete di account, che sono, ripeto, persone vere, quindi account vere, a un certo punto vengono controllate dal social media manager del partito e iniziano nel giro di pochi minuti a mandare centinaia e migliaia di tweet, di post Facebook che sono sempre uguali. Ecco, noi lo riusciamo a vedere ex post perché vediamo che nel giro di 30 secondi sono stati mandati 700 messaggi che sono esattamente uguali, il che è impossibile. Quindi capiamo che c'è un coordinamento dietro. Però è un modo assolutamente legale perché le persone, in maniera più o meno consapevole, hanno dato comunque il proprio consenso a che il proprio account venga utilizzato. Senta, ma cosa ci può dire di chi oggi fa maggiore utilizzo di questi metodi? Beh, ovviamente i partiti populisti sono quelli che fanno maggiormente uso di questi metodi. Grazie Gaia Rubera. Prego. Bene, cari ascoltatori, abbiamo concluso anche per questa sera. Ci diamo appuntamento a lunedì. Buona serata a tutti voi.